Capitolo 16. Nonostante tutti i suoi argomenti, Miss Crawford non riuscì a far dimenticare del tutto a Fanny quanto era avvenuto. Quando la serata si concluse, andò a letto portandosene il peso con sé, coi nervi ancora vibranti per la violenta emozione causatale dalle sollecitazioni di Tom, così insistenti e fatte così pubblicamente, e con lo spirito abbattuto per la sgarbata osservazione e il rimprovero della zia. Essere indicata l'attenzione di tutti in quel modo, avere la netta sensazione che si trattava solo del preludio di qualcosa di peggiore, sentirsi dire che assolutamente doveva recitare, cosa che a lei sembrava impossibile, e poi, subito dopo, venire accusata di caparbietà e di ingratitudine. Con in più la pesante allusione alla sua situazione di dipendenza, sul momento era stato troppo sconvolgente perché una volta rimasta sola il ricordo le consentisse la calma, specialmente quando al ricordo si aggiungeva il timore di quanto la mattina seguente poteva recarle con la ripresa della discussione. Miss Crawford l'aveva protetta solo sul momento e se l'avessero sollecitata nuovamente quando fossero tra loro, con tutta l'urgenza e l'autorità di cui Tom e Marie erano capaci, e per caso Edmund fosse stato assente, cosa avrebbe dovuto fare? Il sonno la colse prima di trovare risposta a questa domanda e quando si destò la mattina seguente se la ritrovò davanti, non meno inquietante. Poiché la piccola mansarda bianca, che abitava da quando era venuta a far parte della famiglia, non le suggeriva nessuna soluzione, si rifugiò, appena fu vestita, in un'altra stanza più spaziosa, che le permetteva un andirivieni propizio alla riflessione e della quale era ormai da tempo unica padrona. Era stata la loro stanza da studio e la si era indicata così fino a quando le signorine Bertram non avevano più permesso che le venisse dato quel nome e che fosse usata come tale. Miss Lee vi aveva vissuto e lì essi avevano letto e scritto e parlato e riso fino a 3 anni addietro, quando l'istitutrice le aveva lasciate. Allora la stanza era rimasta inutilizzata e per qualche tempo l'unica a entrarvi fu Fanny, che vi andava ogni tanto per curare le sue piante e per prendervi uno dei libri che lasciava lì, visto che nella cameretta al piano di sopra mancavano lo spazio e le strutture adeguate ad accoglierli. Poi, gradatamente, si era resa conto di quanto poteva riuscirle comodo l'occuparla e l'aveva fatta sua. E, nulla essendovi in contrario, ormai vi passava gran parte del tempo libero, avendovi fatto apertamente, come cosa naturale, il suo nido, tanto che ormai quell'ambiente era generalmente ritenuto destinato a lei. La stanza a est, come era stata definita fin da quando Julia Bertram aveva compiuto i 16 anni, era ormai indicata in famiglia come la stanza di Fanny, e completava la mansarda bianca le cui ridottissime dimensioni rendevano logica e opportuna quell'attribuzione di uno spazio maggiore. La cosa era tanto evidente che le signorine Bertram, le quali godevano nei rispettivi appartamenti di tutti gli agi che consideravano dovuti alla loro elevata posizione, la approvavano senz'altro e Mrs. Norris, avendo stipulato che non vi verrebbe mai acceso il caminetto per conto della nipote, si rassegnò, senza opporre troppe obiezioni, al fatto che ella usufruisse di qualcosa che in casa non serviva a nessun altro. Questo anche se il modo in cui ogni tanto accennava una così indulgente concessione avrebbe lasciato supporre che si trattava della migliore stanza del park. In realtà l'esposizione ne era così favorevole che anche senza essere riscaldata da una fiammata, in molte mattinate di precoce primavera o di tardo autunno era perfettamente abitabile per una persona pronta, quale Fanny, ad accontentarsi. E finché vi era uno sprazzo di sole, ella sperava di potervisi trattenere anche a sopraggiungere dell'inverno. Il conforto che gliene veniva, con la possibilità di trovarvi la solitudine, era grandissimo. Poteva rifugiarvisi dopo ogni increscioso incidente prodottosi al piano di sotto e vi trovava immediato compenso nel darsi a una qualche gradita occupazione o a una opportuna riflessione. Le sue piante, i suoi libri, quei libri che aveva messo insieme a poco, fin dal primo scellino di cui era stata padrona, la sua scrivania, i lavori che l'ingegnosità o la carità le suggerivano, erano tutti a portata di mano e se era troppo frastornata per concentrarsi in una congeniale occupazione, oppure se si sentiva unicamente disposta alla fantasticheria, Non vi era oggetto in quella stanza che non risvegliasse un qualche grato ricordo. Ogni cosa lì le era amica e atta a indirizzare il suo pensiero verso persone amiche, e benché a volte vi avesse conosciuto ore difficili, come quando i motivi che la spingevano ad agire erano stati fraintesi, oppure i suoi sentimenti erano tenuti in non cale, o la sua quieta intelligenza sottovalutata, benché fosse stata spinta a rifugiarvisi dalla pena che le infliggevano la tirannia della zia Norris, le risa che certe sue reazioni suscitavano, oppure dall'impressione di essere trascurata, anche la reminiscenza di tutto ciò presentava risvolti consolatori. La zia Bertram aveva parlato in suo favore, Miss Lee era stata incoraggiante, o, evento ancora più frequente e più caro, Edmund era stato il suo difensore, il suo amico, aveva sostenuto la sua causa, spiegando agli altri quello che lei aveva inteso dire, l'aveva esortata a non piangere, le aveva dato una prova d'affetto che rendeva dolci le lacrime. E ogni cosa ormai era così ben fusa, armonizzata dalla distanza, che ognuna delle passate afflizioni aveva il suo incanto. Per tutto questo, la stanza le era carissima e non avrebbe voluto scambiare con i più belli della casa i mobili della stanza da studio. Anche se questi, semplicissimi e inadorni da nuovi, avevano poi sofferto tutti i maltrattamenti dei bambini che li avevano usati e l'arredamento era completato e arricchito da uno sbiadito sgabello da piedi, ricamato da Giulia, da tre trasparenze per le tre impannate inferiori di una finestra, fatte dalle ragazze quando le pitture su materiale traslucido erano state di gran moda e dove Tintern Abbey faceva bella mostra di sé fra una grotta in Italia e un lago al chiaro di luna nel Cumberland. E sopra la mensola del caminetto, da una raccolta di ritratti di famiglia giudicati indegni di qualsiasi altro posto, al cui lato si trovava, spillato su una parete, il piccolo disegno di una nave che alcuni anni prima William aveva inviato dal Mediterraneo, scrivendovi in calce HMS Antwerp, in lettere alte come l'albero maestro. Fanny scese ora in questo suo confortevole nido per sperimentarne l'influenza benefica sul suo animo agitato e dubbioso, per vedere se guardando il profilo di Edmund sopra la mensola del caminetto non le riuscisse di indovinarne il consiglio, o se, dando aria ai suoi gerani, fosse possibile anche a lei respirare una corroborante boccata di fresca brezza. Ma non le era sufficiente allontanare il timore di non saper perseverare perché incominciava a dubitare su quello che avrebbe dovuto fare e mentre andava qua e là, inquieta per la stanza, l'incertezza aumentava. Agiva bene, rifiutandosi a quello che le chiedevano così caldamente, con tanta insistenza? Cosa poteva esserci di tanto essenziale in un progetto al quale alcune delle persone che avevano diritto a tutta la sua compiacenza tenevano tanto? La sua riluttanza non era semplice musoneria, egoismo, paura di esporsi. E il giudizio di Edmund, così sicuro della disapprovazione di Sir Thomas in proposito, era sufficiente a giustificare l'ostinato rifiuto di lei, Fanny, a dispetto di tutto quanto le avevano fatto presente? Il recitare le sembrava in sé tanto odioso che si sentiva indotta a dubitare della sincerità, della genuinità dei propri scrupoli e, mentre si guardava intorno, il diritto dei cugini ad essere compiaciuti veniva rafforzata dalla vista dei numerosi doni ricevuti da loro. La tavola, tra le finestre, era ricoperta di scatole da lavoro, di telai da pizzo, che le avevano regalato in svariate occasioni più di tutti Tom. E in lei andava crescendo un senso di sbalordimento a mano che prendeva viva coscienza del debito contratto, messo in piena luce da quelle affettuose testimonianze. Un colpo bussato all'uscio la riscosse nel bel mezzo del tentativo di raggiungere la certezza su quale fosse il suo dovere in quella circostanza. Il suo sommesso avanti fu seguito dalla comparsa della stessa persona alla quale era solita sottoporre tutti i suoi dubbi. Alla vista di Edmund, gli occhi le brillarono di piacere, ma prima che potesse aprir bocca, posso parlarti per pochi minuti, Fanny? Chiese lui. Sì, certamente. Vorrei consultarti, mi occorre la tua opinione. La mia opinione? Esclamò lei, ritraendosi a un simile complimento per gradito che fosse. Sì, mi occorrono il tuo consiglio e la tua opinione. Non so cosa fare. Questo progetto della recita si fa sempre meno accettabile. Hanno scelto tra tutti il testo peggiore e adesso, per completare l'opera, si preparano a chiedere l'aiuto di un giovanotto che conosciamo appena. Questo di per sé esclude la privacy e il decoro di cui si era parlato all'inizio. Non ho mai sentito dire niente contro Charles Maddox, ma l'eccessiva familiarità che l'ammetterlo così fra di noi comporterà inevitabilmente. Mi sembra assai discutibile, anzi, più che di familiarità si può parlare di vera e propria intimità. È una cosa che non posso tollerare, un male di estrema gravità che, se possibile, deve essere prevenuto. Questo, secondo me. Non sei d'accordo? Certo, ma cosa si può fare? Tuo fratello è così deciso. C'è una sola soluzione, Fanny. Devo prendere io la parte di Anhalt. Sono certo che solo questo farà cambiare idea a Tom. Lì per lì, Fanny non seppe cosa dire. Non che la cosa mi entusiasmi, continuò Edmund. A nessuno può piacere di lasciarsi indurre ad agire con tanta apparente inconsistenza dopo aver apertamente contrastato il progetto fin dal primo momento. Vi è una palese assurdità nel mio condiscendere a unirmi a loro proprio adesso che stanno andando oltre ogni limite accettabile. Ma non so pensare a nessun'altra soluzione. E tu, Fanny? No, disse Fanny lentamente, non così su due piedi, ma cosa? Visto che non consideri la cosa nel suo insieme dal mio punto di vista, pensaci un po' meglio, forse non ti rendi chiaramente conto, come faccio io, delle complicazioni che potrebbero nascere. E delle spiacevoli situazioni che inevitabilmente nascerebbero se un giovanotto estraneo venisse accolto tra noi, così come uno di famiglia, autorizzato a capitare qui in qualsiasi momento e a instaurare all'improvviso intimità che per la loro stessa natura portano a eliminare ogni cerimonioso ritegno. Solo a pensare alla libertà di modi che ogni incontro nel corso delle prove tenderà a creare. È tutto fuori posto, assolutamente fuori posto. Pensa alla situazione di Miss Crawford, Fanny. Considera cosa significhi sostenere la parte di Amelia con un perfetto estraneo. Ha il diritto di essere presa in considerazione, visto che anche lei, con tutta evidenza, considera incresciosa questa situazione. Ho udito abbastanza di quanto ti ha detto ieri sera per capire quanto la contrari l'idea di dover recitare con un estraneo, e siccome probabilmente ha accettato la parte avendo in vista un'altra soluzione, forse senza riflettere sulla cosa, in modo da afferrare subito quali ne sarebbero state le implicazioni per lei, sarebbe ingeneroso. Sarebbe un vero errore esporla alla situazione che si verrebbe a creare. Il suo modo di sentire dovrebbe essere preso in considerazione. Non ne sei convinta, Fanny? Esiti? Mi dispiace per Miss Crawford, Edmund, ma mi dispiace ancora di più vederti trascinato ad agire contro le tue stesse risoluzioni, per deciderti a una cosa che sai che dispiacerà a mio zio, che trionfo per gli altri. Oh, avranno ben poco da trionfare quando vedranno in che modo infame recito, ma in ogni caso al primo momento trionfo ci sarà e io devo prepararmi a sopportarlo, ma se posso essere io il mezzo per porre un limite alla pubblicità e alle ambizioni dello spettacolo, per circoscrivere la nostra follia, mi sentirò ben ricompensato. Nella posizione che ho presa non ho nessuna influenza, non posso fare nulla, li ho offesi e così rifiutano di darmi ascolto. Ma dopo che li avrò messi di buon umore facendo questa concessione, non mi manca la speranza di riuscire a persuaderli ad accontentarsi di una esibizione più modesta di quella che stanno progettando. Questo sarà un vantaggio non disprezzabile. La mia ambizione è di riuscire a limitare gli inviti a Mrs. Rushworth e ai Grant. Non è questo un risultato che merita di essere conseguito? Sì, sarebbe certo una buona cosa, che tuttavia non ha la tua completa approvazione. Puoi indicarmi un qualsiasi altro modo che mi dia la probabilità di ottenere quanto mi propongo? No, non so pensare a qualcos'altro. E allora dammi la tua approvazione, Fanny, non mi sentirò a posto se me la rifiuti. Oh, cugino, se sarai contro di me, come potrò aver fiducia di me stesso? Eppure, No, è assolutamente impossibile lasciare che Tom proceda a modo suo, andando in giro per tutto il circondario alla ricerca di qualcuno che si lasci persuadere a recitare. Qualcuno? Chi? Non importa. Secondo lui basta che abbia l'aspetto del gentiluomo. Pensavo che avresti dato maggior peso ai sentimenti di Miss Crawford. Oh, lei senza dubbio sarà molto contenta della tua decisione, sarà di grande sollievo per lei, disse Fanny, cercando di mettere più calore nel tono di quanto ne provasse intimamente. Non mi è mai apparsa più degna di approvazione che nel suo modo di comportarsi con te ieri sera si è decisamente conquistata la mia benevolenza. Sì, è stata veramente molto gentile e sono lieta che le venga risparmiato. Non le riuscì di portare a termine la sua generosa effusione. La sua innata onestà la bloccò a mezza strada, ma tanto bastò perché Edmund si sentisse soddisfatto. Bene, farò un salto giù alla canonica subito dopo la prima colazione e sono sicuro che la notizia sarà bene accolta. E ora, cara Fanny, non voglio rubarti altro tempo, so che desideri leggere, ma non potevo sentirmi a posto prima di aver parlato con te e di aver raggiunto insieme una decisione. Il dilemma mi ha ossessionato durante tutta la notte, sia che dormissi o che fossi desto. È pur sempre un male, ma senza dubbio minore di quanto sarebbe altrimenti. Se Tom è già alzato, andrò subito a raggiungerlo e sistemerò la cosa. E quando ci incontreremo a colazione, saremo tutti di ottimo umore alla prospettiva di fare i buffoni con tanta unanimità. Tu, immagino, nel frattempo farai un viaggio in Cina. Come vi procede, Lord McCartney? Ed ecco a portata di mano i racconti di Crabbe e Lydler, in caso ti dovessi stancare del tuo dotto librone. Ammiro molto questa tua stanza. E appena me ne sarò andato, scaccerai dalla mente tutte le stoltezze inerenti alla recita e ti siederai serena e tranquilla al tuo tavolino. Ma non startene qui se dovessi sentir freddo. Se ne andò. Ma per Fanny non vi fu né lettura, né viaggio in Cina, né serenità. Edmund le aveva dato la più straordinaria, la più inconcepibile, la più sgradita notizia, e lei non poteva pensare a nient'altro. Avrebbe recitato, dopo tutte le sue obiezioni, obiezioni così giuste, così pubbliche, dopo tutto quello che gli aveva udito dire e con quale espressione e quello che ella sapeva sui suoi principi, era possibile? Edmund, così incoerente, non stava ingannando se stesso, non si sbagliava? Ahimè, era tutta opera di Miss Crawford. Fanny aveva riconosciuto l'influenza di lei in ogni parola del cugino. Ed era desolata. I dubbi e le inquietudini circa la propria condotta, che poco prima l'avevano messa in apprensione e che erano rimasti sopiti mentre lo ascoltava, le sembravano ormai di poco conto. Questa nuova, più acuta ansietà li annullava. Le cose ormai avrebbero seguito il loro corso. Non le importava come sarebbero andate a finire. Tom poteva tornare all'assalto, ma difficilmente sarebbe riuscito a frastornarla. Ormai tutto questo non la toccava più e se alla fine fosse stata costretta a cedere, poco importava. Tutto era desolazione.